Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, 8:20, Buongiorno a tutti. Oggi sui santi non fare scherzi, Beh, c'hai una raccomandata. C'ho una raccomandata. Non delle poste. Una santa Francesca Ponziani, detta Santa Francesca Romana. Esatto, mia moglie. Che va bene. Noi dobbiamo prestare il doveroso ginocchiatoio. Sì, no, la formula dei mariti. Con ceci e fagioli sotto. È noto che più o meno i mariti. Infatti, a proposito di ceci e fagioli, oggi anche San Domenico Savio, un santo caro alla tradizione salesiana. Certo. Che siccome abbiamo incrociato, esatto, sia io che te nella vita, San Domenico Savio, mi ricordo sempre quando ci veniva impartita la lezioncina, che appunto si metteva in ginocchio con i ceci sotto le ginocchia, esatto. E io ogni volta avevo questo brividino che mi correva sulla schiena. Io dicendo... ho fatto parte anche per un breve periodo degli amici di San Domenico Savio. Andavamo in gita gridando San Domenico Savio e E poi San si finisce la curva in là allo stadio, dopo, capito? Vabbè, è stata una parentesi della Perché è carissimo la tradizione salesiana. Chiaro. Ricordiamolo a chi non c'è passato, per gli oratori o per le scuole dei salesiani. Tra gli altri santi, San Paciano da Barcellona. Ecco questo nome, Paciano, che mi piace. È un nome da butta fuori delle primarie del PD. Paciano, è un cosentiniano, Paciano, ecco come dire. Tra gli anniversari della giornata, oggi dal 1955 la Fiat presentava la 600, che ha fatto la storia d'Italia, e personalmente buon compleanno un'attrice che mi piace molto, Juliette Binoche, però vabbè. Aspetto personale. Si scoprono gli altarini di Oscar Binoche, classe di grande attrice. Va bene. E allora, appunto, le primarie, tu hai detto, hai citato le primarie. Oggi, cari ascoltatori, vi vogliamo un po' convocare su questo 800 24 00 24, perché è singolare, cioè l'unica coalizione o partito che di fatto le fa. Succedono, come dire, dei pasticci, delle questioni, anzi, anche come le ha chiamate, Vincenzo De Luca. Senti De Luca. Ah, queste a Pagani c'è un'espressione bellissima, cioè babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. Sì, babbarie. Babbarie. La prima una B solo, la seconda con due B. Che gli spiega, diciamo, anche perché la gente non capisce che è babbarie con una B all'inizio, poi due, la lezione magistralis del cioè nostro... cose fatte da un babbo, cioè uno stupido presidente, perché di solito si usa il termine siciliano, che invece è notissimo, perché babbiare, no? Eppure c'è pure a Pagani, la vera capitale della cultura italiana. Se non si ha l'orizzonte del salernitano, vabbè, lui guarda lì, caput mundi. Insomma, sono sciocchezze, cari ascoltatori, o vi sembra che siano successe delle cose gravi? Però è singolare questa cosa. Cioè, ma secondo te è più grave a Roma o a Napoli? Perché a Roma invece hanno scoperto tante schede bianche, ma sul Messaggero un dirigente del PD ha detto sì, ma le abbiamo gonfiate per far vedere che sono andati a votare di più. Capito. E poi ci siamo resi conto che è stato un boomerang ma dire guarda, questa cosa. Che intelligenza da parte di questi dirigenti di partito. Che devi dire, Oscar? Devo dire che le partite arriveranno quello che sono diventati. Cioè, la pretesa supremazia morale ed etica del PD, come si vede, a ogni prova, dei fatti, da loro stessi organizzati, mica da malevoli avversari, si rivela infondata. Cioè, i partiti oramai sono diventati delle macchine di potere che prendono voti da capo e bastone, che vogliono voti per potere, stanno nelle liste per questo. È così che sono state fatte le liste del PD in Puglia, per Emiliano, in Campania, da De Luca, e queste cose si vedono quando ci sono le primarie. Però cosa vuol dire? Che quindi le primarie sono, come ha detto Berlusconi, vedete no, che ve l'avevo detto, sono fonte di corruzione, sono sbagliate, cioè se, il paradosso è questo. Il paradosso è che chi sempre le fa adesso è criticato perché le fa male. No, ma il paradosso sono i partiti che divorano se stessi per gli spazi di assoluta o potere insindacabile che si sono dati nei decenni. Se avessimo approvato la norma costituzionale prevista sui partiti, su forme di garanzia interna di democrazia, che disciplini quindi anche, per chi lo vuole fare, mica perché obbligare tutti, le primarie, e imponessero doveri di trasparenza economico-finanziaria, queste cose non avvenissero. Invece i partiti vogliono le mani libere, i soldi pubblici e privati, e poi vogliono fare la gara chi è più democratico, e quando li vai a misurare, ecco cosa succede. Certo, Bassolino dal suo punto di vista fa bene a far ricorso, perché che ne dica la Valente, cioè dire la vittoria è stata chiara, ha vinto per 500 voti, è chiaro che avesse vinto per 20.000 voti di scarto, uno dice vabbè, effettivamente sono successe delle cose, degli episodi, per 500 voti. E quei 500 voti sono, come scrivono tutti i giornali napoletani il mattino da ieri, mica la società civile dal basso, sono un capobastone bassoliniano da sempre, dal 2004, che il giorno prima in due sezioni ha cambiato posizione fuori da Valente. Vabbè, questo gli 600... ci sta, questo è legittimo, anche se criticabile. Ma voglio dire, legittimissimo, non voglio dire niente di no. Però non è, capisci, nelle migliaia di voti della società civile non sappiamo è chiaro, questo lo scarto è stato pesa. talmente scarno che uno dice andiamo a fare 570 voti, bastavano 250 voti che cambiassero tra i due, e questo no, Orfini, presidente del PD, dice in un'intervista alla stampa ci sono stati gli errori, vedremo, ma non inficiano il risultato. No, ma Renzi ha dato la linea, ha detto si va avanti, basta, cioè è la linea travolgente di sempre di questi tempi della leadership PD. I problemi vengono, tra virgolette, superati perché in 5 minuti si parla d'altro. È così, questo riguarda tutto. In altri tempi, la lettera mandataci ieri dalla Commissione Europea, oggi avrebbe titoloni sui giornali, invece non c'è la manovra, quindi è tutto a posto. È tutto così, in realtà tutto a posto il piffero, perché se uno legge la lettera capisce che il giudizio sulla manovra del 2016 fino a maggio non ce lo danno, ci hanno chiesto una microcorrezione, dicono i conti per il 2017 con le clausole di salvaguardia fiscale come le fate. In altri tempi ci sarebbero paginate intere su queste cose, e invece tu dici quindi no, è efficace dal punto di vista Renzi, come si vede, perché ottiene che grandi problemi non siano affrontati. Voglio dire, una notizia come quella che oggi c'è su un solo tra i grandi quotidiani, e D'Alema che dice a Brai candidati a Roma contro Giachetti. Dai, però e io non so se sia vero o meno. No, non lo so. Però negli altri giornali non c'è. Riflettiamo. Ma insomma, vediamo poi se lo candida. A me questa, un po' di tafazzismo, come dice Giachetti, c'è sempre stato nella sinistra. Ah no, dividersi, cioè, sempre. Dividersi e anche Pierluigi Battista in un bell'articolo. Lì a sinistra non bastava un candidato, Fassina. No, ce ne vogliono due. Quindi D'Alema che dice no, Fassina no, Brai sì, quindi si spaccano in mille rivoli. Un po' come nel centrodestra. Senti, hai visto che Salvini, a proposito, solo un flash, però Salvini che dice che se si va al ballottaggio con i candidati dei 5 Stelle, lui dice che vota e fa votare quelli dei 5 Stelle. Questo a dire che forse non vogliono vincere, a corroborare il fatto che al centrodestra qualcuno non vuole vincere. Oggi però su Repubblica, caro Oscar, mi ha colpito la notizia di Liana Milella, è un'anticipazione di ciò che è un rapporto del Ministero dell'Economia, secondo il quale i contributi che gli immigrati che lavorano nel nostro paese regolarmente versano all'INPS consentono di erogare 600.000 pensioni degli italiani all'anno. Ma mi hanno colpito perché gli ascoltatori mi hanno scritto, l'ho letta la sera stampa, dice guarda che quelli lì sono 600.000 che levano il posto agli italiani, che se lavorassero loro sarebbero gli italiani a contribuire alle pensioni degli italiani, invece sono extracomunitari. Peccato che, come è noto, fanno mestieri che gli italiani non vogliono fare. Appunto. Però a me questa storia di non accettare l'idea di conti banali, perché ognuno deve ribadire la sua linea pregiudiziale a favore o contro. Io sono dell'idea che uno si formula un'opinione sulla base dei numeri, non che piega i numeri in base alle opinioni, no? E questo numero deve far riflettere rispetto agli 8 miliardi complessivi introitati dagli immigrati in Italia. 600 milioni non di più sono intanto degli incassi diretti loro per l'assistenza e previdenza, 2 miliardi e mezzo mettiamoci il finanziamento ai problemi degli immigrati nuovi che arrivano, bene, restano 5 miliardi di attivo, e con quelli si pagano 600.000 pensioni. Questo è il dato di fatto, ma dato dell'economia, cioè, ripetiamo, gli immigrati che lavorano in Italia pagano di fatto 600.000 pensioni, esatto, agli italiani. Grazie anche a questo contributo il sistema previdenziale regge, regge magari con le stampelle, ma regge. Regge con le stampelle, ma senza reggerebbe peggio. Senza ecco, reggerebbe peggio, dubbio. Subito a dire hanno rubato, rubano il posto agli italiani. Sì, certo. Comunque i nostri ascoltatori sono straordinari. Prima di dare la parola ai nostri ascoltatori, sai cosa ci ha mandato? Due dei nostri ascoltatori. Vogliamo premiarli, perché poi magari alla fine si firmano anche, se no comunque li facciamo sentire. Guarda cosa ci hanno mandato, senti un po'. Oscar Giannino ogni mattino si sdegnerà, sbraiterà Alessandro Milan, anche a lui gli giran malo gesti, tira con la pubblicità. Ma ti rendi conto? No, ma poi senti, no, ma poi capisco, cioè, meraviglia, pensa, oltre al fatto che canta anche bene, quanto ci hanno messo per farlo? ma è chiaro, un grande applauso, un grande abbraccio, insomma, perché siamo commossi, diciamo, siamo commossi. Beh, ce l'hanno mandata, potete mandarcela anche voi, WhatsApp è a vostra disposizione al 349-238-6666. Come si chiamano? Costoro si firmano alla fine. Aia, questa è colpa nostra però. No, si firmano. By Roberto De Nicolò e Massimiliano Morga. Ale. Da Bari. Da Bari. Vabbè, invece andiamo a Milano, dove ci chiama. Mandateci di queste cose, che sì, poi a mandare chi di dovere al posto giusto ci pensiamo, esatto, noi in trasmissione. WhatsApp, via mail anche, insomma, mandate 24 mattino e radio24.it la mail, insomma, ci potete mandare quello che volete. Intanto ci chiama invece da Milano Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Dica. Io volevo parlare per le primarie. Sì. Premetto che sono iscritto al PD da una vita, cioè anche da prima che non fosse. Ho visto tutta l'evoluzione, ok. Io partecipo alle primarie, sono dal lato organizzativo, sono di Milano, abbiamo fatto le primarie anche per Sala, mm-hmm. Io ero favorevole a Sala. Sono stato anche, non questa volta, altre volte, anche presidente di un seggio a Milano, non ho mai visto nessuna irregolarità. C'è stato l'ultimo seggio, l'ultima volta, che sono arrivati due cinesi, uno parlava, non parlava neanche l'italiano. A un certo punto avevamo nel circolo una saletta dove avevamo fatto regolarmente i quattro seggi, quattro urne, voleva entrare, non l'abbiamo fatto entrare, non ci abbiamo mai avuto nessun problema, come mi sembra che non ci siano stati problemi a Milano. Per quanto riguarda Napoli, mi sembra abbastanza, non dico una barbaria perché io sono milanese, ma veramente è un caso di uno che ha dato un euro a un altro per votare. Non lo so, non voglio pronunciarmi, comunque è già una cosa illegale, cioè è una cosa che non mi piace. Io sono uno di quelli che va al seggio, teoricamente non avevo nemmeno l'obbligo di pagare i due euro in quanto iscritto, in quanto detto al coso. Io ho pagato, come hanno pagato tutti gli altri miei amici, io ho pagato 10 euro. Vabbè, insomma, dice, lei ha constatato che insomma irregolarità a Milano non ce ne sono state. Sai che questo Oscar, questo Antonio, come si chiama, Borrelli che ha dato Borriello che ha dato l'euro. Senti qua, perché le ha dato l'euro? Una persona, massimo un'altra, ma non ricordo esattamente. Uno venuto nel seggio, non si trovava l'euro, questa persona che neanche conosco, per non apparire scortese, io davanti a tutti, proprio per far comprendere l'eccezionalità di un atto, una cortesia, votate, l'ascoltatore si riferiva a questo, ho dato l'euro per poter, non vi preoccupate, capiterà. Allora, Tony Borriello è esattamente il capobastone delle due sezioni che porta i voti decisivi, esatto, per la vittoria della Valente. Però dice lo ha fatto perché questo non aveva un euro, una persona che non conosco. Allora, perdona, queste cose fossero avvenute nel centrodestra o Forza Italia, ci sarebbe l'esplosione e sarebbe giusta, legittima. Non è che si può dire che il capobastone a cui le ricostruzioni dei nostri colleghi che conoscono sezione per sezione del PD a Napoli attribuiscono la vittoria della Valente, preso a dare soldi fuori, noi ci fermiamo a dire: ma poverino, prendiamolo in parola, poverino, un atto di cortesia, e diciamo: per tutto il resto non c'è nessun problema, il PD è trasparente, perché vuol dire che siamo ciechi e in malafede se facciamo così. Dobbiamo adottare lo stesso criterio adottato per tutti. I capi bastone che pagano la gente per votare inficiano ogni significato e credibilità di questo. Non si dica a Milano, dove avviene però dove sì. Avviene, certo. Dove avviene sì. Sentiamo Stefano che ci chiama da Cesena. Buongiorno Stefano. Buongiorno, chiamo da Cesena ma sono romano, quindi le vicende romane le seguo molto da vicino. Una cosa che non è stata messa in evidenza secondo me è che tutta l'associazione parte civile che è nata intorno all'ex sindaco Ignazio Marino ha dato per diversi giorni prima del voto chiare indicazioni di boicottaggio delle primarie, quindi anche se parzialmente c'è anche un valore politico in questa tensione. E poi l'altro elemento, lo dico molto rapidamente, è smentire quello che ha detto Orfini sul fatto che i capi bastone non sono andati a votare, perché se a Napoli si sono messi in moto, secondo me anche a Roma non si sono spaventati per la pioggia e non sono rimasti a casa. A votare anche lì, perché Orfini si è fatto questa dichiarazione dicendo questo è un nuovo PD dove non vanno a votare anche le carovane di Roma, ha detto questa frase, devo dire un pochino infelice riguardante la gestione del passato. Comunque, no, anche perché non risulta che lui stesse da un'altra parte. Sì, non era non presidente era commissario, PD, non so, era, chi non se era, ne frega. Cioè, era, non è che era dentro il partito, non esatto. È che possono parlare con questa disinvoltura del loro partito di cui erano felici perché vincevano inventandosi una foglia di fico a cui attribuire i problemi, Bettini sarà inventata del PD. Questa disinvoltura del PD che parla di se stesso in questi termini è un altro aspetto rivelatorio di che cosa è avvenuto in quel partito. Il potere ammazza la trasparenza e nubila l'intelligenza. Tra l'altro, caro Oscar, vedi, adesso dovremmo applaudire i migranti che ci pagano le pensioni. Vedi che insomma questo seme di vedere ai numeri. Neanche ringraziarli perché le pagano? No, so. Esatto. Facciamogli pagare doppie, esatto. Triple, perché sono immigrati. No, comunque, perché di migranti parleremo tra poco. Avremo ospite Carlotta Sami, del Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, e Mario Giordano, che ha scritto un libro su il business profugopoli, il business chi lucra sui migranti in Italia. Devo dire che letto dall'inizio alla fine fa una certa impressione. Abbastanza di storie da mani sul volante, come io dico, ce ne sono. Tra poco. Sono le 8.40, caro Oscar, eccoci qui allora. Vogliamo parlare di immigrati? Niente, questa storia degli immigrati che pagano parte delle nostre pensioni, gli ascoltatori non digeriscono. Uno ci ha scritto, sì, pagano l'INPS, però usufruiscono dei servizi dello Stato. Perché incessantemente dei populisti con facili tesi per far voti gli hanno ficcato in testa che sono i parassiti che noi paghiamo. Peccato che a vedere il bilancio è il contrario. Non è proprio così. E anzi, adesso parliamo di un'altra cosa, degli italiani che rubano i soldi pubblici con la scusa degli immigrati. Sì, perché c'è chi ci ha scritto un libro, si tratta di Mario Giordano, direttore del TG4. Buongiorno Mario, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Il libro si intitola Profugopoli, edito da Mondadori, insomma quelli che si riempiono le tasche col business degli immigrati. E chiariamolo subito, sono italiani questi? Sono tutti esclusivamente italiani. Certo che il fatto di farci affari fa anche sì che non si risolvano i problemi dell'emergenza, si rimanga nell'emergenza volutamente secondo me, perché l'emergenza è quella che fa poi permette di fare tutte le porcate che racconto nel mio libro. Ma tra l'altro viene da dire, la domanda quasi anche provocatoria, ma è così un male fare affari coi migranti, cioè sul business, fare business con i migranti da gestire, da... Se ti restano appiccicati i soldi, certo, che prendi dei contributi e te li metti in tasca, altro che è chiaro. Ci sono tanti aspetti. Innanzitutto c'è un aspetto di malaffare vero e proprio, quello che dimostrato Mafia Capitale, e il mio libro va a raccontare che purtroppo Mafia Capitale non si ferma a Roma ma si diffonde in tutta Italia. Anzi, una delle cose più scandalose è che le cooperative coinvolte in Mafia Capitale in modo perfettamente legale, e questo secondo me è due volte scandaloso, continuano a vincere appalti e a gestire non solo a Roma, ma dopo lo scandalo, dopo che i loro fondatori e dirigenti sono stati arrestati dicendo che se volevano magnare tutta Roma, la mucca da munge, gli immigrati rendono più della droga, continuano a vincere a Lecco, a Como, ancora l'altro giorno a Treviso, a Livorno, a Avellino. Questa è una cosa un po' incredibile, anche perché ci sono delle prefetture che giudicano questi i progetti di queste cooperative Guarda, ancora l'altro giorno la prefettura di Treviso ha giudicato come punteggio tecnico al secondo posto e quindi ha fatto passare la Domus Caritatis, che è una di quelle. Io mi domando se almeno col minimo del buon senso della cosa, se non sia possibile. Poi se dimostreranno, ci saranno i processi, dimostreranno che sono innocenti, che quelle intercettazioni ce le siamo sognate, che nulla di quello è vero, saranno riammesse. Ma visto che stiamo parlando di solidarietà e di accoglienza, se non c'è qualcun altro che possa gestire gli immigrati, questo intanto è un fatto. Seconda cosa, fare affari significa che sono saltati sulla nuova cassa del mezzogiorno, che è il fiume di denaro gestito facilmente con i contributi pubblici, un sacco di avventurieri improvvisati dall'associazione folcloristica. Aspetta però, perché chiarisci, per chi non ha letto il libro, non vorrei che pensassero i nostri ascoltatori che le cose vengono solo a sud perché chiama cassa del mezzogiorno. Tutta Italia, anzi, un bel po' di nord che urla contro gli immigrati. Che si ruba i soldi pubblici per gli immigrati. No, io intendo Cassa del Mezzogiorno come criterio di mammella pubblica, di mucca da mungere. Ecco, lo dicono esplicitamente. Questa è la nuova mucca da mungere, che va dal profondo del nord-est alla Lombardia, all'Emilia, alla Toscana, fino ad arrivare alla Campania, alla Sicilia, dappertutto. È la nuova mucca da mungere. Ma cosa succede? Che si buttano all'assalto della diligenza. Chi è che si butta? Un sacco di avventurieri, delle che hanno sono controllate da offshore nei paradisi fiscali, delle persone, delle società, un istituto per odontotecnici, vengono assegnate delle cose, un'associazione folcloristica che fa balli in Sicilia. E il risultato di questo poi che cos'è? Un'impresa di termoidraulica che vengono a gestire gli immigrati. Il risultato di questo poi che cos'è? Che ovviamente la gestione non è all'altezza, cioè non sono in grado perché non sono strutturati, e quindi che cosa succede? Succede che gli immigrati vengono trattati male, di cui abbiamo quelle immagini che abbiamo visto, sbattuti in catapecchie, locali inadeguati, creano problemi e la gente poi si inferocisce, per forza che la gente si inferocisce, perché dice io devo pagare con i miei soldi attraverso le prefetture delle persone e poi avere una situazione di disagio sociale che crea allarme sociale, quindi non va bene. Allora, insieme a Mario Giordano ci ascolta anche e la salutiamo, la ringraziamo, Carlotta Sami, che è portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. Buongiorno Carlotta Sami, grazie. Grazie, buongiorno a voi. Allora, mi ha colpito perché la gestione dei migranti non riguarda solo l'Italia, ma sappiamo, e Radio 24 lo sta raccontando, in tutta Europa c'è una grave problematica. Perché l'ONU si è dichiarata un po' scettica anche per l'accordo che si è fatto e si sta profilando con la Turchia? Che cosa non va bene di quell'accordo? Beh, più che scettici, abbiamo preso una posizione molto forte, molto ferma, di grande preoccupazione, perché innanzitutto il vertice che c'è stato non ha portato ancora un accordo, perché questo deve essere definito poi il 17 di marzo, quindi speriamo che si possa ritornare su alcuni punti che sono non solo contrari, diciamo, al diritto sia europeo stesso, che evidentemente i negoziatori pensano prima o poi di riformare e di cambiare radicalmente, ma sono anche contrari al diritto internazionale. Pensare di riportare con una sorta di mercanteggiamento in Turchia migliaia di richiedenti asilo, centinaia di migliaia di richiedenti asilo, per poi farne arrivare per ogni persona rinviata una persona in Europa, è intanto macchinosissimo, estremamente costoso, con dei costi non solo economici ma anche umani estremamente alti. Ma poi se si va avanti a leggere nella dichiarazione, si scopre che in realtà gli impegni rimangono quelli assunti l'anno scorso, cioè di far arrivare in modo legale 20.000 persone. Allora qui crolla un po' tutto questo castello, perché se si vuole veramente disincentivare la partenza di siriani ed afghani, questa non si disincentiva assicurando l'arrivo di 20.000 persone, no, quando nella regione ce ne solo di siriani ce ne sono 4 milioni. Bisognerebbe risolvere il problema alla radice, intanto, che però è un intanto po' complicato. È un po' risolvere complicato alla radice, laddove è evidente che c'è un'assenza di leadership profonda, che poi produce delle sofferenze enormi. Sofferenze che però, parliamoci chiaro, l'Europa fa finta di non vedere, ma vengono sopportate anche da paesi estremamente instabili e molto più poveri del continente europeo, Libano, Giordania e la stessa Turchia, che è il paese che ospita più rifugiati al mondo, sì. Almeno 2.700.000 siriani. Però io volevo questa chiederle questo, che effetto le fa sentire da Mario Giordano, che ci racconta il suo libro, che dietro come dire, al velo di accoglienza, solidarietà, in realtà si nasconde spesso per molti italiani l'idea di fare affari sul guardi, business dei migranti. Ci fa l'effetto, sicuramente leggerò il libro, ci fa l'effetto di una conferma rispetto a preoccupazioni e a rapporti molto precisi che sono stati fatti anche dalla nostra agenzia nella sua attività di monitoraggio al Ministero degli Interni, alle prefetture, nel sottolineare che soprattutto il meccanismo che si è attuato, che è stato avviato fondamentalmente nel 2011 e poi è stato mantenuto e adesso si spera che con le ultime normative possa essere superato, cioè quel meccanismo dell'appalto veloce in stato di emergenza, presenta dei problemi proprio di governance enormi, perché non c'è assolutamente trasparenza sull'utilizzo dei fondi, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto e poi la distribuzione di beni. E questi problemi poi si sono in realtà riversati sicuramente innanzitutto sulle spalle dei richiedenti asilo e degli immigrati, creando fra l'altro una logica perversa a catena, perché sì. La cattiva accoglienza porta ad una pessima integrazione, perché no, la certo, cattiva la gente accoglienza s'arrabbia, la poi gente produce s'arrabbia. Persone che non ricevono ad esempio quel famoso corso di italiano o di preparazione ad alcune professioni, quindi fa sì che poi le persone si disperdano sul territorio. Però mi colpisce, Oscar, mancata trasparenza, cioè perché in Italia? Ma è così difficile, accidenti, ma, avere guardi, un minimo sì, di trasparenza? Sono anche cose molto banali, come ad esempio l'avere degli archivi informatici dei beni acquistati e poi distribuiti, parliamo di cose piccole così, che però moltiplicate per cento producono dei danni enormi, ecco. E poi sì, il secondo punto, non solo sulle spalle questi danni dei richiedenti asilo, ma anche sulle spalle degli italiani stessi, perché noi penso che venga fuori anche nel libro, ci sono diverse di queste cooperative che poi alla lunga hanno problemi con i dipendenti perché magari non li pagano per mesi pure. O se non per anni. Pure. No, la mancata trasparenza mi ha colpito, Oscar, perché c'è è come una costante, no, in queste cose italiane. Io penso che insomma, l'Italia, che da più di 20 anni, dalla legge Martelli, si interroga da quando è cresciuto il suo status di paese non solo di transito, ma insomma un paese d'arrivo, bersaglio di transito, no? Fino agli anni 80 non esisteva questo fenomeno. Però 20 anni senza aver dato una soluzione alla domanda, al di là dell'emergenza dell'accoglienza nel Mediterraneo per non farli morire annegati, no? Che si fa? Allora, c'è un modello italiano della presa in carica? La risposta dopo 20 anni è no, perché la politica nazionale, dopo le guance gonfie del fatto che noi salviamo con i nostri grandi cuori e sentimenti umani no, gli immigrati nel Mediterraneo, poi Roma dice: cari prefetti, adesso ve la vedete con le autorità locali, cari prefetti fate i bandi con le cooperative eccetera, i comuni vedano loro come fare per l'integrazione, ognuno un modello diverso e noi ce ne laviamo le mani. Ecco, questa cosa qui dopo 20 anni, 25 oramai bisogna dire, secondo me resta un enorme buco nero su cui la politica, prima di gonfiare le gote con la colpa è degli immigrati, forse la colpa è, dopo 25 anni, non avere uno straccio di modello di gestione e di integrazione. Dire dopo 25 anni siamo nell'emergenza, è questo Mario Giordano ridere, no? che fa ridere, cioè, perché tutto da lì passa, dalla gestione emergenziale, no? È da qui che ci sono le gare fatte in 448 e senza quella trasparenza necessaria, o no Giordano? Assolutamente sì, la gestione emergenziale è quella che permette di saltare molti controlli e quindi di fare in modo che, ripeto ancora adesso, perché purtroppo le cose continuano a cadere, come dicevo, ancora adesso in questi giorni le prefetture continuano ad assegnare secondo i vecchi sistemi alle vecchie cooperative saltando, e poi ci ritroviamo altro che senza corsi di italiano, ci troviamo gli immigrati messi in situazioni 150 in un paesino che ha solo 100 abitanti o cose di questo genere, abbandonati senza acqua potabile come è successo in vari, cioè in situazioni devastanti. Però non vogliamo cascare dal pero, che è evidente che la politica c'entra in tutto questo, e per quello secondo me è importante, al di là del fatto, lo sappiamo che è così, denunciare nome e cognome, perché dietro ogni nome e cognome, se parliamo Domus Caritatis, sappiamo che ci sono delle relazioni politiche, perché il CARA di Mineo è la più grande industria della Sicilia, e lì si muovono soldi, tanti soldi come abbiamo visto, e tanti voti e posti di lavoro. Allora perché si lascia la situazione? Beh, ripeto, se non vogliamo cascare da la denuncia, che in molti casi, mi permetto di dire, è anche, come dire, nella sua drammaticità folcloristica, perché ci sono dei personaggi, quello che gira in Ferrari, quello, insomma ci sono dei personaggi, però ha un fondamento drammatico, cioè dietro questa cosa qua la politica non interviene, perché la politica da questa situazione, ahimè, ci guadagna e ci sguazza. Senti qua direttore, c'è Denis che ci chiama da Mantova per raccontare cosa, siamo in chiusura. Denis, se è breve ci fa una grossa cortesia. Velocissimo, sì. Buongiorno a tutti. Io ho ospitato per 12 mesi nel mio piccolo albergo, anche su richiesta della prefettura inizialmente, una ventina di questi ragazzi trattati con i guanti, e a 26 euro al giorno, 26 euro al giorno, colazione, pranzo, cena e alloggio. Sì. Mi hanno pagato mediamente a 150 giorni. Il 30 di novembre ho dovuto chiudere bottega, mi hanno sospeso le utenze. Per crediti, ha dovuto chiudere per crediti. Perché per il credito dovevamo pagarci l'IVA, le utenze, le materie vive da mangiare. Materialmente chi è che non la pagava? Chi? La cooperativa che gestisce la cooperativa, che i soldi invece li ottiene. Quindi non lo Stato, la cooperativa. Cioè. Cooperativa con la quale abbiamo sottoscritto un contratto dove si evince che il Ministero dell'Interno darà tot euro al giorno ad immigrato, e dove c'è la cifra, c'è un timbro nero con scritto omissis. Io in qualità di cittadino italiano avrei gradito imparare quant'era che dava lo Stato. Beh, insomma, che è un segreto di Stato. Non solo lei non sa quanto per la cooperativa. Comunque, ma la cooperativa non lo pagava. Raffiche di casi così in tutta Italia nel bellissimo libro di Giordano, Profugopoli. Sì. Esatto, Profugopoli lo trovate in libreria, Mario Giordano. Grazie, ovviamente, insieme anche a Carlotta Sami. Grazie. Abbraccio, Mario, saluti ai quattro Giordanini e alla mamma. I quattro Giordanini, è vero, ha scritto che ha quattro Giordanini, i suoi figli. Chissà se sono tutti tifosi granata come te, caro Oscar. Lo so, questa che vuoi da me. Vabbè. Dai, ci dobbiamo fermare qui. Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Vescapè in regia. Grazie. Il miglior articolo del giorno, Hans Kung, che dice: